Antonio? Buonasera, aspetta che mo adesso aggiungiamo pure a Vittorio, eh? Questa, quando ci colleghiamo sempre con... Quando ci colleghiamo sempre con sto cavolo di come si chiama? Aspetta, seleziona, eccolo qua. Aggiungi. Quando ci colleghiamo sempre con praticamente Skype, andiamo sempre incontro un po' a problemi. Comunque Ando, approfittando adesso, Vittorio, ci sei? Vittorio? Tu Ando lo vedi a Vittorio? Sulla fotografia tu Cioè tu vedi soltanto la mia? ma fotografia però No, vabbè, io allora praticamente quando andò, quando io chiamo più persone, cioè la prima persona io la riesco a vedere anche in video. Se aggiungo più persone, praticamente diciamo, non so se per una ottimizzazione che fa Skype, però credo che praticamente dia una prevalenza all'audio rispetto che al. La voce si sente per il momento. No, no, no, no, la voce assolutamente. No, perché vado a vedere tu mani vuote, Ma aspetta che praticamente aggiungiamo. È che è caduta la linea, aspetta un attimo. Antonio, c'è Naro? era caduta la linea. Mo aggiungo un attimo pure a Vittorio. Vittorio, dove stai? Vittorio, Vittorio, Vittorio. Eccolo qua, mo l'ho aggiunto pure a lui. Dovrebbe entrare anche pure lui in conversazione, Antonio. Tu mi senti sempre? E comunque, Antonio, praticamente una cosa importante, diciamo, prima magari che diamo un poco qualche aggiornamento e ragguaglio, diciamo, su quello che stiamo facendo noi sulla disabilità. Mi sono sentito, cioè, praticamente via messaggeria. Sono riuscito a contattare a Luigi Cirillo e quindi lunedì praticamente rimaniamo sempre con il solito orario delle 3, però praticamente, siccome che le condizioni meteo non sono buone, praticamente faremo anche con lui questo collegamento. Ci ho detto via Skype, però lui insomma, siccome che c'ha l'account con Hangout, mi ha chiesto praticamente di mettermi in contatto con il suo collaboratore e quindi molto probabilmente insomma dovremmo usare il canale Hangout di Luigi. Praticamente insomma ci faccio l'impasciata quando è stasera è spedito, che è il suo collaboratore. ma è sempre Skype. No, è Google Hangout, cioè è similare diciamo a Skype, soltanto che è un'applicazione diciamo di Google, hai capito? Andò. Sì, magari Andò, ti faccio io o nella giornata di domani, se ci sentiamo. Tu basta che vai sopra, diciamo, a Google Hangout, basta che tiene un account con Gmail, praticamente insomma non dovresti avere problemi, ma soltanto io volevo sapere se Vittorio ci sentiva. Vittorio, Vittorio, cioè sta dentro a, come si chiama, però non lo sento. Tu lo vedi Antonio? No, io non lo vedo, però io vedo solo la fotografia di lui. Diciamo, però io non lo vedo, a lui non lo vedo, cioè è entrato nella conferenza, però non lo sto, diciamo, vedendo e volevo capire praticamente. Mo ci mando un attimo un messaggio. Aspetta un attimo. Ok, No, tiene pure, diciamo, Aspetta che mossa pure, sta pure Teresa, mo chiamiamo pure a Teresa, aggiungiamo pure Teresa. Allora, Teresa, PQLS, Teresa De Giulio, che non vedo in linea. Ecco qua. Allora, Teresa, ti ho aggiunto alla conversazione. Alla conversazione, ma risulti fuori linea. Comunque, non so se diciamo, ragazzi, datemi confermando, io ho messo. Ah, sta pure Angelo Di Prisco, mo mettiamo pure, mo aggiungiamo anche ad Angelo Di Teresa. Teresa, Ando, tu ci sei sempre? Sono qua, non lo Bravo, mo inserisco pure a, mo inseriamo pure a, come si chiama? Angelo, allora aggiungiamo anche Angelo Di Prisco. Angelo, eccolo qua. Seleziona, aggiungi. Vediamo un poco. Io al momento, Angelo, ci sei? Angelo, ci sei? Angelo, tu ci sei sempre? Qua. Aspetta che rispondo un attimo, Angelo. Gennaro. Guarda, ma ciao, guarda che io praticamente ti ho aggiunto alla conversazione. Sì. Hai capito? Ti avevo aggiunto, mo praticamente ti ho risposto, però io ti ho aggiunto alla nostra conversazione. Quindi Quindi mo io diciamo chiudo questa webcam in singola e ti diciamo vedi che tu già ci stai dentro la conversazione, capito? Altrimenti mo allora Angelo, mo faccio così, prova, ti chiamo te e aggiungo gli altri, va bene? allora chiami tu a me dalla Ti conversazione. chiamo e poi aggiungo gli altri, ok? Perfetto, perfetto, grazie. Allora, chiamata in sospeso. Come faccio? Antonio? No. Ci siamo? Angelo, sì, aspetta che mo adesso aggiungiamo anche. Gennaro? Sì, io ti sento e ti vedo. No, ti sento. Hola. Io ti sento ma non ti vedo. Tu mi senti? Ti sento ma non ti vedo. Non ti sento. No, io ti sento ma non ti Ah, vedo. Io ti sento, Angelo, ti sento ma non ti vedo. Ti sento ma non ti vedo. Ti sento ma non ti vedo. ti sento bassissimo, non ti sento poco e Aspetta, Angelo, aspetta che leggo un attimo l'audio e ti richiamo. Allora, audio. Allora, uscita, ingresso. Ok. Ok, andiamo a vedere un attimo. Antonio, aggiungo pure praticamente mentre che stavo andò, ho parlato pure con Angelo Di Pisco e c'era sempre il problema. Angelo, ci sei? Andò, tu mi senti? Sì, io ti sento, vedo Angelo in linea. Ah, ma tu Angelo lo vedi? Sì, lo vedo in linea, poi vedo Ok, anche Angelo ci sei? Angelo, noi non ti sei. Angelo? No, già sei in linea. Angelo, sei già in linea. Tu lo vedi, Antonio? sì, sta in linea, sì. Cioè, voglio dire, ma lo vedi anche sul tuo monitor? Sono in linea. Solo in linea. Allora, aggiungi persone. Allora, Angelo. E non lo vedo, ma non lo vedo neanche più lì. Angelo, ma tu già stai in linea, Io non diciamo. ti sento, mamma mia. Io Sei già in linea. pure non ti sento. Sei già in linea. Sì. Andò. Antonio. Teresa, Senti, io non so nemmeno come ci sono riuscita a fare tutto questo, capito? Cioè, bella, ma io non ti sento. grazie per averti incontrato. Ti sento soltanto in audio, Teresa. Ma aggiungiamo anche le altre persone che man mano. Ma sto aggiungendo anche Antonio Pico, Angelo Di Brisco. Tutto questo non so nemmeno Bravo. io come ci sono riuscita, in considerazione che è un handicap per questo aggeggio. No, ma praticamente io diciamo, anche vedi, avevo messo Ma ci mise Antonio, non ci capite. Antonio, perché non risulta nella conversazione? Siamo soltanto noi praticamente. Mi senti, Teresa? Teresa? Oh Gesù, tutti caduti qua. Teresa? Erika? È ricaduta, ma mo diciamo, ecco, mo ti vedo pure. Oh, per aggiungere le persone alla conversazione. Mo mi stai chiamando Angelo Di Brici. Aspetti, che mo ti aggiungo io, Tere. Ti aggiungo io. Antonio, ma è tutto è un manicomio. Mo mi avevi chiamato pure Teresa, mo cerco di riaggiungerla, perché niente, c'è un manicomio praticamente. Allora, seleziona, aggiungi, vediamo un pochettino. Teresa, cioè io capito, ce la vedo in linea, però sento sempre solo una persona. Sento sempre solo una persona. Cioè, ma avete pure io in linea? Non ho capito, cioè aggiungo le persone, però vedi? Aggiungi, non sto aggiungendo, ma ho aggiunto pure Angelo Di Prisco. Aggiungi persone, vediamo un poco, Vittorio.